Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Debs. Benvenuti e benvenute a Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Storia del mondo, storia di donne e storia di uomini. Eventi storici, libri di storia e storia del nostro presente. Naturalmente anche anniversari. Storia quindi. Nella puntata di oggi, una delle ultime di questo 2017 pieno di anniversari della rivoluzione, in cui tanto abbiamo parlato di rivoluzione, andiamo a pescare un anniversario che al momento sembra purtroppo essere passato troppo sotto silenzio. Era l'8 dicembre del 1987, quando quattro palestinesi, provenienti dal campo profughi di Jabalia, striscia di Gaza, vengono investiti da un autocarro israeliano. Il giorno seguente, gli otto campi dell'enclave si accendono, dando il via a una delle più vaste campagne di mobilitazione di massa che la Palestina abbia mai conosciuto. Una mobilitazione nota negli anni come l'Intifada delle Pietre, che ebbe il suo punto più alto fra il dicembre dell'87 e i primi mesi dell'88, ma che durerà complessivamente quasi 6 anni e che conterà alla sua conclusione 1258 palestinesi e 150 israeliani uccisi. L'intifada si chiuderà con i discussi accordi di Oslo del 93 e la nascita, pur con un governo in esilio, di una forma di Stato palestinese. Nella memoria resterà comunque l'immagine dei ragazzi con la keffia che scagliano delle pietre contro i blindati dell'esercito israeliano. Ma che cos'è stata l'intifada dell'87? Forse ci basterebbe evocare questa immagine per spiegarla, in quanto descrive bene quei mesi di grande mobilitazione popolare che coinvolse non soltanto la striscia di Gaza, il centro delle prime rivolte dopo l'incidente, ma che coinvolse rapidamente, con la velocità della benzina infiammata, anche tutti gli altri territori, separati dalla linea verde dei confini del 67, che avrebbero poi formato l'autonomia palestinese, la Cisgiordania, la Galilea, il Negev, villaggi, quartieri delle città occupate e naturalmente Gerusalemme. Popolo della gloriosa intifada, che la resistenza si estenda, che le manifestazioni continuino per tutta la prossima settimana, che si brucino copertoni in tutte le strade, che si affrontino i soldati di occupazione con le pietre. Queste parole sono tratte da uno dei volantini del Comando Nazionale Unitario dell'Intifada, l'organizzazione politica che agì autonomamente dai tradizionali partiti della guerriglia riuniti nell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, allora ricordiamo in esilio a Tunisi, come guida della mobilitazione. Oltre a evocare l'intensità di uno scontro condotto a mani nude da ragazzi e ragazze palestinesi, queste parole testimoniano il carattere originale di questa rivolta all'interno della storia palestinese. Un momento di presa di parola, di partecipazione dal basso degli abitanti dei territori occupati e dei campi profughi, che si mossero senza indicazioni da parte della dirigenza palestinese, allora in esilio, in risposta alle difficoltà vissute nella quotidianità. L'intifada del 1987-88 fu una fiammata di rivolta autenticamente popolare, che colse impreparati tanto gli israeliani, che pur avevano notato una crescita degli incidenti nei territori occupati, valutando che nel 1987 il coefficiente di rischio fosse aumentato, quanto soprattutto la dirigenza dell'OLP, che dall'esilio non era stata in grado di percepire il grado di tensione che si respirava nei campi, soprattutto fra la popolazione giovanile. Ora, iniziamo a entrare in atmosfera, ci ascoltiamo un pezzo di quelli abbastanza carichi, siamo Bisca 99 Posse, l'album è Guai a chi ci tocca del 1995, la canzone è No Way. Nessun ipocrisia, oggi nella brava. black is not for sale, no way. The black is not for sale, no way. The black is not for sale, no way. The black is not for sale. Gli spiriti senza pace di coloro che morirono invano, che accantonarono le leggi dell'uomo abbastanza a lungo da permettere alla loro coscienza di essere la loro guida, oggi chiedono la comprensione di tutto il mondo. C'è una nazione che sta morendo, la cui sacralità è stata tradita, sfruttata, svenduta da chi non l'ha rispettata, né l'ha capita. Bene, diamo ora il benvenuto al professor Wassim Damash, docente universitario e ricercatore, che abbiamo invitato per raccontarci dell'Intifada partendo da questo vecchio libro, Voci palestinesi dell'Intifada, pubblicato da Vecchio Faggio nel 1989, quindi oramai un po' di tempo fa, e che abbiamo visto è stato ripubblicato nel 2006 da Nuova Cultura. Il libro usciva all'epoca nella collana curata dalla Fondazione Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli e abbiamo pensato di riprenderlo all'interno di questo 30° anniversario dell'Intifada. Allora, buonasera professor Damash innanzitutto. Buonasera. Allora, il libro del 1989 raccoglieva una serie di testimonianze e documenti provenienti dalla mobilitazione dell'Intifada, raccontando anche in maniera molto efficace la realtà della repressione quotidiana nei territori, nei campi profughi, ma anche la grande capacità che dimostrò il popolo palestinese in quell'occasione di auto-organizzarsi, di lanciare una spinta di base. Per cui io partirei da una doppia domanda. Che mondo era innanzitutto quello della Palestina dell'87 e dell'88 e cos'è stata? Tanto per lei, quanto che quel libro ha curato, quanto per il popolo del palestinese, l'esperienza dell'Intifada? Beh, il mondo in generale era ben diverso, stiamo parlando di 30 anni fa. È vero che intanto c'era ancora la sovietica, il mondo era diviso in due, quindi i movimenti di liberazione, cui anche quello palestinese, erano ancora, come dire, vigorosi, nonostante che l'OLP nel 1982 aveva subito quella sconfitta con l'invasione israeliana del Libano, e probabilmente questo è il motivo per cui l'Intifada fu quella che è stata, insomma, una sollevazione popolare di massa. E in questo senso, per l'appunto, sollevazione popolare di massa, sollevazione molto forte, e la cosa che colpisce, di cui spesso purtroppo poco si parla, è in un certo senso autonoma anche da quello che era l'organizzazione di liberazione, per la liberazione della Palestina, che in quel momento si trovava in esilio a Tunisi, per l'appunto. Sì. In che maniera si è espressa questa organizzazione di base del popolo palestinese? Beh, si erano formati dei comitati popolari, soprattutto all'inizio. Quando si parla dell'Intifada, di solito, no, si dice è iniziata nell'87 e poi andò avanti fino alla conferenza di Madrid nel 90, non è preciso questo. In realtà l'Intifada come movimento di massa autonomo, no, durò pochi mesi. Poi in qualche modo intervenne l'OLP e la trasformò in qualche modo, perché come movimento di massa fu un movimento non violento, questo è fondamentale, non violento e in qualche modo contrario alla lotta armata, e poi sfociò in anche in azioni violente, ma i comitati popolari non erano affatto, non aderivano alla lotta armata, e quindi questo è un aspetto che bisogna prendere in considerazione. Questi comitati di quartiere, comitati di villaggio, in vario modo si sono organizzati e hanno cercato iniziare una disobbedienza civile, non pagando le tasse, non finanziando quindi l'occupazione. Per fare questo hanno tentato anche di creare una sorta di economia alternativa, di utilizzare i prodotti della terra, non comprare nei supermercati i prodotti israeliani, quindi un boicottaggio non ben organizzato, però che inizialmente ha funzionato. Ecco, tutte queste, tentare di creare una economia autonoma, diversa, non controllata dall'occupazione, crea tutto un sistema autonomo in qualche modo, anche educativo. Le scuole erano chiuse, per cui sono nati dei comitati degli insegnanti che facevano lezione nelle case ai bambini, cioè organizzare la sanità in modo autonomo, quello che poi divenne in qualche modo l'autonomia palestinese in quegli anni. Allora, io volevo chiederle una cosa: in che maniera secondo lei ci fu in quel momento, e se ci fu, diciamo, un cambiamento rispetto a quella che era stata la storia palestinese precedente? Cioè, il ventennio che separa il 67 dall'87 è un ventennio molto, molto pesante, fatto anche di storiche purtroppo sconfitte da parte tanto dei regimi arabi quanto anche da parte dell'OLP, come diceva. Sì. In che maniera l'intifada, e se l'ha fatto, ha prodotto un cambiamento all'interno della società palestinese? Ma è il contrario in realtà, è l'intervento esterno che ha prodotto il cambiamento. L'intifada è stata il coronamento di un percorso di lotta popolare che durava da moltissimi anni. C'è stato il periodo del 1936-39 completamente molto simile a quello dell'87-90, diciamo così, no? Perché? Perché nel 36 c'è stato uno sciopero durato 6 mesi e poi sfociato nella lotta armata, eccetera. Però quel periodo, quei primi 6 mesi, no? Sono stati un periodo di lotte popolari, di scioperi, di organizzazione di massa, un tentativo di liberare le energie popolari, creare comitati per l'educazione, per la sanità, per un'economia diversa, la stessa cosa. E quindi l'intifada non è stata a partire dal dicembre dell'87 non è stata qualcosa di strano, di particolare, è stata una sollevazione popolare nel pieno senso di questa espressione, esattamente come è stata quella del 36. Cos'è rimasto all'interno della società palestinese di questa esperienza di sollevazione popolare dell'87-90 di cui ci ha parlato? È rimasto poco, purtroppo, molto poco, però in certe situazioni, in quelle situazioni dove si tenta ad esempio di opporsi al muro oppure al sequestro delle terre, a difendere i contadini, ecco, cioè, ci sono delle lotte popolari che sono autonome, che non fanno parte, diciamo, che non seguono le direttive di gruppi organizzati, cioè della cosiddetta autorità palestinese o altri. Questo è rimasto, sì, certo è poco rispetto al resto, però. Allora, approfittando per una distanza di 30 anni, bisogna anche dire, sì, prego. Allora, approfittando un po' della sua conoscenza, della sua professionalità, diciamo, volevo farle un'ultima domanda sulla letteratura. Allora, noi della letteratura palestinese molto spesso sono noti i grandi autori storici, Darwoush, Kanafani. Volevo provare a chiedere, l'esperienza dell'intifada ha inciso in qualche modo sulla letteratura palestinese? Poi mi viene da pensare, sì, se c'è una differenza fra la letteratura della diaspora invece di chi viveva sotto occupazione. Sì, questo forse era prima del 67, cioè esiste una differenza fondamentale. Certamente l'intifada ha cambiato anche la letteratura palestinese, basta pensare agli autori che hanno, autori giovani, ma anche poeti, non soltanto scrittori, che hanno scritto in quel periodo e dopo, insomma, ancora oggi si sente l'effetto di... Cioè, è stata anche l'intifada, è stata anche una presa di coscienza, di consapevolezza della forza che può esprimere una popolazione che si ribella. No, poi si è visto altrove, in Egitto, in Tunisia, cosa vuol dire tutto questo. Certo che ha influenzato moltissimo la letteratura, anche di autori che avevano già che erano affermati prima dell'intifada, come il poeta Darwish o come un altro poeta che Nasrallah o altri ancora, no, che anche autori, non solo i poeti, insomma anche altri scrittori, la loro scrittura è cambiata a partire da quel momento, da quel fatto fondamentale, no? che è stata l'intifada, che è stata quindi la forza popolare, no? La capacità della popolazione di auto-organizzarsi al di là dei movimenti, dei gruppi di guerriglia, di altro. Perfetto, la ringrazio molto per essere stato grazie, con noi. Grazie a lei. Italia, da Bassano, Aia, no, Aia, Gisha, Dov, Cavi. Ringraziamo tantissimo il professore Damash per essere stato con noi a parlare dell'intifada palestinese. Quindi, l'esperienza dell'intifada dell'87 ha rappresentato, come dicevamo, una presa di parola determinante da parte della popolazione palestinese, prima ancora che da parte delle sue forze rappresentative. In particolare, è stata la componente giovanile ad aver messo sul piatto della politica la necessità di avviare un percorso di autonomia da parte della Palestina, che non poteva essere rimandato semplicemente perché c'era un popolo che aveva dimostrato la sua capacità di intervenire e di gestirsi. Dell'esperienza di autogoverno che venne messo in campo durante l'intifada da parte della società civile, ben presto poco restò. Già alla seconda fase di trattative che si tennero a Madrid nel 92, gli esponenti dell'intifada avevano lasciato il posto all'OLP, che pur per i protagonisti delle lotte doveva essere l'unico interlocutore per una trattativa con Israele. La presenza dei tunisini però, come venivano detti i dirigenti in esilio, portò le trattative lontane da quel terreno di quotidianità e di esigenze reali che aveva mosso la rivolta delle pietre. L'autonomia palestinese che si sarebbe formata avrebbe poi portato ad un incancrenirsi delle dinamiche di scollamento fra dirigenza politica, nuovo ceto burocratico legato all'OLP e la popolazione. Parlare dell'intifada oggi non è soltanto ricordare un incidente della storia, diciamo, una fiammata di partecipazione popolare, di presa di parola pubblico svincolato dalle organizzazioni politiche in un momento come la fine degli anni Ottanta in cui globalmente si registrava una trasformazione, se non un arretramento della partecipazione politica. Parlare dell'intifada è anche una maniera per comprendere le difficoltà e i problemi che sono rimasti nella vita quotidiana dei palestinesi, che gli anni di accordi non sono riusciti a risolvere, con le organizzazioni politiche non sono state in grado di dare una risposta. L'acqua nei campi continua ad essere poca e i plossi di blocco ancora bloccano la circolazione e l'indipendenza dei palestinesi. In che maniera però tanto Israele quanto Fatah o Hamas o tutte le organizzazioni politiche del popolo palestinese pensano di dare una risposta? Come migliorare la vita dei palestinesi? La strada politica non ha prodotto miglioramenti, non resta che attendere un nuovo cambiamento e una nuova partecipazione, ma al momento sembra difficile che si realizzi, se non nella forma di un sempre maggiore avvicinamento alle organizzazioni religiose e un sempre maggior avvicinamento a delle pratiche di conflittualità politica decisamente violenta e molto drammatiche. Non possiamo che pensare a questo, soprattutto in un momento come quello di questi giorni in cui il presidente Trump ha fatto la sua proposta di spostare, di riconoscere Gerusalemme come capitale, nodo che è aperto dal 1948 e questo forse non potrebbe far altro che peggiorare la situazione. Siamo arrivati in chiusura di puntata e siamo stati molto contenti di aver dedicato questo spazio alla storia della Palestina, alla storia dell'intifada, e siamo stati molto contenti di aver ospitato Wassim Damash. Di lui vi suggeriamo alcuni testi, innanzitutto Voci palestinesi dell'intifada, il libro da cui siamo partiti, che forse potrebbe essere più facile ritrovare nell'edizione del 2006 di Edizioni Nuova Cultura. E sempre sulla letteratura palestinese, che è uno dei punti invece che è la sua specializzazione, suggeriamo Letteratura palestinese antologia, edito dall'Università di Roma La Sapienza nel 2005. Un altro testo molto interessante, anche questo forse un po' difficile da trovare, è quello a cura di Tommaso De Francesco di Pio Banconi, edito da Manifesto Libri nel 2002 come seconda edizione, La terra più amata, voci della letteratura palestinese. E invece, per inquadrare la questione palestinese più in generale, suggeriamo l'agile libro pubblicato quest'anno da Edizioni Alegre, scritto da Chiara Cruciati e Michele Giorgio, il corrispondente del Manifesto, 50 anni dopo, 1967-2017, i territori palestinesi occupati e il fallimento della soluzione dei due stati. Ricordiamo, edito da Alegre quest'anno. Libro molto agile e di facile consultazione. Di non altrettanta facile consultazione, ma sicuramente molto ricco di dati, è il libro che è uscito, un altro libro che è uscito quest'anno, scritto dallo storico Aaron Bergman, La vittoria maledetta, storia di Israele e dei territori occupati. Einaudi 2017 è un libro che parte dalla guerra dei sei giorni e cerca di raccontare come all'interno anche la società israeliana sia cambiata a partire da questo momento, e ci racconta la storia dell'occupazione da partire dal 1967. Testo difficile e per inciso molto costoso, ma che vi indichiamo come lettura. Bene, per questo fine settimana è tutto, non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutte e tutti da Frey e Debs.